GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Ancora polemiche dopo la volata a scudetto vinta dall'Inter e in vista della finale di Coppa Italia che sabato all'Olimpico metterà ancora una volta di fronte nerazzurri e giallorossi. Dopo De Rossi, dalla capitale è il portiere romanista Doni a rilanciare la tesi di favori arbitrali per l'Inter campione d'Italia. Purtroppo abbiamo visto tanta cosa che secondo me, secondo tanti, no, non sono corretto. Però a questo punto non resta più niente da dire, è successo, purtroppo l'Inter ha meritato perché è arrivato davanti, in campo, fuori campo, questo non è importante a questo punto. Il patron interista Moratti prima reagisce stizzito, ipotizzando di schierare i ragazzini all'Olimpico, poi prova a rasserenare il clima. Non è una battuta, niente di più. Io credo che domenica, invece sabato, sia molto importante dimostrare tutte e due le squadre, soprattutto il pubblico, che insomma sono due squadre che hanno fatto un campionato bellissimo e si possono incontrare insieme senza creare problemi e senza fare drammi. Questo è importantissimo per tutti, insomma. Oggi intanto il CT Donadoni diramerà le convocazioni azzurre per gli europei di Svizzera e Austria. Pressoché certa la chiamata del capocannoniere Del Piero, ma Luca Toni, compagno di reparto, preferisce non sbilanciarsi. Ma speriamo che sia un europeo dove l'Italia si possa togliere delle belle soddisfazioni insieme a tutti i tifosi italiani. Sarà una bella battaglia perché abbiamo un girone di ferro. Questa è una cosa che aspetta Donadoni. Io spero di giocare, poi dopo chi giocherà al mio fianco non lo so. Intanto un altro azzurro, Gennaro Gattuso, dopo le voci di un possibile addio, ha chiarito il suo futuro. Resterà al Milan per altri 3 anni. E oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l'accordo tra l'attaccante Amauri e la Juventus. Ora spazio al Giro d'Italia. Siamo al giro di boa, alla prova delle lancette, quelle del cronometro, che contano i secondi e i minuti, ma hanno il potere di dire anche chi ha ambizioni in questo giro, che attende con ansia le grandi montagne che arriveranno in questo fine settimana. Prova cronometro da Pesaro Urbino, un cronometro di 40 km, tecnicamente molto difficile, adatta agli specialisti che potranno far valere le loro attitudini, ma che non metterà in ginocchio chi con il cronometro non ha confidenza, visto che il finale è terreno adatto ai passisti scalatori. Il tedesco Klonen è pronto a far valere il proprio talento, lo spagnolo Contador con al polso sinistro una microfrattura anche. Poi le Pina, Savoldelli, Menciova, Di Luca, Riccoppi, Lizzotti, Nibali, tutti in fila per misurare le proprie forze e le proprie ambizioni. Primo a partire alle 13 l'ultimo in classifica, Ermanno Capelli. Ultimo a partire il primo della classe, la maglia rosa, il siciliano di Toscana Giovanni Visconti, che Ragusa Stagi gira 24, sole 24 ore, Pesaro. E Dario Ceccarelli ha chiesto un pronostico sulla cronometro di oggi al grande saggio del ciclismo italiano, Alfredo Martini. Uno dei migliori sarà Kloden. Kloden è il corridore che ha più, fra quelli che curano la classifica, è quello che avrebbe più classe, ha dei mezzi fantastici, soltanto che è uno che a volte lascia un po' correre, non è alla ricerca di meglio di se stesso. Chiudiamo col basket, la nazionale italiana sarà orfana di Andrea Bargnani nelle partite di qualificazione ai prossimi europei. Il giocatore dei Toronto Raptors infatti è stato bloccato dalla franchigia canadese e non potrà così rispondere alla convocazione del CT recalcati. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14, ancora una buona giornata da Dario Ricci.